that you can support your dope habit. Yo, yo, la chiede sul beat, Rafit, World 2. Di nuovo insieme sulla stessa traccia e sullo stesso micro. Per le persone vere, Crazy Fox Inc. Per la gente come noi che spinge una passione. Qua non ci sono maschere né dindini. È riflesso di ciò che siamo, ragazzi, di come lo facciamo. E se non vi piace, è meglio se state zitti. Stringo forte queste rime su ste note. Vado oltre l'orizzonte quando la chi chiama e non risponde. Sono sempre primo a far casino. Dammi un micro di una biro che improvvise tiro fuori dal cilindro. Rima e chilo come da copione. R prestazione con i soci si comincia la lezione. Crazy Fox è il nome, ricordalo e segnatela a mente. Poi sciacquati la bocca quando parli di sta gente. LM is connected to Milano. R l'isolano va in collabo con World 2, flow nostrano. Siamo figli di una terra, il nostro mare un po' lontano. Ma portiamo la bandiera dove andiamo. Se parliamo e salutiamo col dialetto, bella mashu, beh com'è, tutto bene, anda bene. Te l'ha detto pure il master che sul tempo non ghinè. Quindi levati da un cazzo che non parli la mia lingua. Fra te e me la differenza è quella tra sostanza ed apparenza. Tra l'indipendenza e dipendenza, fondamentale, essenziale, che distingue per coerenza chi ti rappa una scemenza e chi lo fa perché ne ha la competenza. R è il talento senza pari. Stringo mani miei compari, brinde tempi più lontani. Tu non vali, noi siamo i predatori in questi mari. Mentre tu stai negli acquari, mezzo a pesci rossi con la maschera da squali. Ed è così che va, niente balle, solo verità. Può piacere o non piacere quello che vi proponiamo, ma lo facciamo a testa alta, con molta umiltà. Qui non si gioca, anche se in fondo ci divertiamo e pretendiamo il giusto rispetto che meritiamo. Cantare fa figo, ma noi non ci montiamo, tutto il più vi smontiamo. Chi ti credi siamo noi? Noi non siamo niente, ma lasciamo a bocca aperta tanta gente. Facciamo cose che non penseresti, evidente, altrimenti questa introduzione non sarebbe pertinente. Quanto è facile in questi tempi fare rap, ma perché? Componi rime no yuka con me. Non mi sento un super mic e neanche un super mac. Io mi guardo allo specchio e rifletto, e lui riflette me. War 2 forse non ha faccia da MTV, nemmeno Speed, no Mara. Io rappo qui, c'è chi mi definisce forse artista sperimentale, perché non batto come una puttana commerciale. Io non pensavo di potermi uscire da uno stereo, e non credevo di prendere in tempo quell'aereo. Io non pensavo di potermi realizzare un video, o forse non credevo questo sogno fosse etereo. Ma dentro me porto un bagaglio di questa cultura, a cui hanno tolto radici per cambiare natura. Tra finti b-boy truccati come cowboy, c'è mamma Major che li usa come dei toy boy. Cosa vuoi farci? Questa qui è la verità, e te lo dico con tristezza, perché tristezza mi fa starò zitto solamente quando andrò nell'aldilà. Ma dal di qua io darò voce finché musica non finirà. Hai capito ora chi siamo? La realtà dei fatti che condividiamo con tutti voi e chi ha voglia di ascoltare quello che cantiamo. Siamo sempre noi, semplici, reali, ma decisi. In questa traccia Don Rafiz e World 2 insieme per esprimere un semplice concetto, ok? Su produzioni Lucky Ray. Ehi, ehi, ehi.